Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono venuto in questo posto perché avevo appuntamento col mio medico di base. Volevo parcheggiare, ma il posto era occupato da una autovettura che non aveva all'interno alcun contrassegno disabili. E ragion per cui ritengo che la persona in questione non avesse alcun diritto ad occupare il posto che invece io avevo diritto a occupare. Allora, è stato violato un suo diritto, lei è un disabile, aveva anche il contrassegno dietro per parcheggiare. Certamente, in macchina porto sempre il contrassegno, anzi devo specificare che io ho il contrassegno, quello europeo, che all'interno, nella faccia interna... Forse la cosa non interesserà tutti, però dovrebbe interessare tutti. Io questa mattina ho cambiato al volo il tema della trasmissione perché ancora una volta, l'ennesima volta, toccando di persona un problema, non ne parlo come un fatto personale, mi rendo conto che forse una domanda ce la dobbiamo fare tutti, perché la risposta che daremo e darete voi aiutandomi chiamando l'800240024 questa domanda è anche importante per capire un clima nel nostro paese, un livello raggiunto rispetto a quello che noi consideriamo il tasso medio di civilizzazione di un paese. Ora, avrete notato che nelle città italiane, come in tante altre città del mondo, ci sono dei parcheggi con delle strisce gialle, delimitate da delle strisce gialle. In particolare li distinguete da parcheggi con strisce gialle destinate allo scarico carico merci oppure destinate, non lo so, a particolari categorie di umanità, come non so, sotto le ambasciate ci sono delle strisce gialle, c'è scritto riservato al corpo diplomatico, lì non si può parcheggiare. Non si può parcheggiare in un posto, c'è scritto carico scarico merci, a meno che non si carichino o scarichino merci. Ma i parcheggi di cui ve lo dico perché non è detto che tutti lo sappiano, almeno da quella che è la mia esperienza personale, quello che ho sentito dire, sembra che questo concetto non sia molto chiaro. Alcuni sono contraddistinti da una banda laterale rispetto all'area di parcheggio con delle strisce orizzontali, quasi una sorta di grigliato. E se guardate bene, attenzione, davanti a questo parcheggio c'è anche un cartello dove sopra c'è il disegno stilizzato di un signore su una sedia a rotelle. Su questo parcheggio potrebbe esserci scritto sotto, oltre al segnale di divieto, anche un numero. Questo numero significa che è assegnato in concessione a una particolare persona, quindi quel parcheggio è riservato a una persona. Se non c'è il cartello di concessione, comunque un parcheggio delimitato riservato alle persone con disabilità dotate di un apposito contrassegno che gli viene rilasciato attraverso un iter anche piuttosto lungo, piuttosto faticoso, piuttosto difficile, poter parcheggiare in parcheggi tipo questi. Nelle città italiane ce ne sono abbastanza, ce ne sono molti. Ahimè, il problema è chi ha questo contrassegno, quindi ha passato regolarmente tutto l'iter di accertamento della sua disabilità, quindi a tutti gli effetti, ha diritto di parcheggiare la macchina. Perché? Perché ha già molti problemi rispetto alle persone che parcheggiano ovunque, che si muovono, che camminano, che possono essere perfettamente padroni dello spazio che devono percorrere. Ecco, oltre a questi problemi, vorrebbe almeno avere il piccolissimo sollievo di poter parcheggiare in un parcheggio di quelli a lui destinati. E in particolare chi ha una concessione privata destinata a lui non è un privilegiato, non è un raccomandato, non è un frutto della casta. Potrebbe anche esserlo, ma in questo momento non mi interessa, non siamo noi che dobbiamo essere giudici delle malefatte altrui o del malcostume generale. Certo, esistono un'infinità di persone che usufruiscono in maniera impropria di questo contrassegno, che hanno contrassegni di parenti morti, defunti, di zie che probabilmente stanno da tutt'altra parte, ma in questo momento voglio considerare che potenzialmente ogni volta che vediamo delle strisce gialle con il cartello, con la carrozzina disegnata, con il segno di divieto, quello è un posto destinato a una persona che ha bisogno di parcheggiare in quel posto. Ecco, vorrei capire perché in Italia questo bisogno non viene considerato come qualcosa di essenziale. Perché ogni volta bisogna litigare, si trovano persone che ti guardano dall'alto in basso per dire ma che vuoi te, ce la lascio 5 minuti, vi elenco alcune delle scuse che più facilmente mi sono sentito raccontare quando rivendicavo il diritto di poter parcheggiare la macchina nel parcheggio riservato appunto a mio figlio. Anche io ho un disabile in famiglia, cosa crede? Oppure sono stato a trovare un cieco, sono andato a far visita, se vuole ce l'accompagno e lo faccio vedere. Oppure devo lavorare, cosa crede? Devo lavorare. Poi, non so, ne posso dire tante. Secondo, quanto la fa lunga? Ci ho lasciata solo 5 minuti e magari era mezz'ora, 20 minuti. Oppure ti guardo e dico, ma suo figlio, scusi, cammina, perché lei ha un parcheggio per disabili? L'ultima mi ha mandato poi un messaggio, visto che avevo creato un caso di fronte a questo, dicendo che lei era gravemente malata, aveva dei problemi molto grossi, quindi era stanca, quindi aveva lasciato la macchina in quel parcheggio perché era sua. Ecco, perché in Italia c'è questo problema? Perché è così difficile individuare una piccola, unica, residua area destinata a persone con disabilità? Non è detto che il mondo, la società, deve farsi carico dei disabili, ma perlomeno perché nelle strisce gialle si sentono tutti in dovere comunque di parcheggiarci la macchina? 800 24 0024. Ma dove vai? Convergo sulla struzza. Signora, ma fa vedere la gamba di legno. Scusi, ma che vuole? Due stampelle, una carrozzella, non c'è niente. Parcheggiata al posto da handicappati. Infatti ho un regolare permesso. Ma non ha un regolare handicap. Il permesso è intestato mio marito, io l'ho appena accompagnato in ufficio. Ma che te stai a inventare, signore, che te stai a inventare? Andavalo a trovare in ufficio. Allora basta, si faccia i fatti suoi. Non posso, a me mi pagano per farmi i cazzi dell'altro. Allora, dov'è st'ufficio? Complimenti, mica male per handicappato. Ce l'ha con me. Se lei è il professor Ferretti, primario della clinica Nostra Signora della Salute e proprietario della Cayenne nera, sì, ce l'ho con lei. Oddio, che è successo? Me l'hanno rubata. No, veramente è lei che ruba il parcheggio ai disabili. Ma non si vergogna. Un medico importante che i disabili dovrebbe curarli, invece li frega. Quanto ti ha costato il permesso per mandare tua moglie in centro a fare lo shopping? Luigi, ti dai una mossa che mi aspetto una studio per la stipula. Questo ecco, è Claudio Amendola, Ermonnezza resumato, che fa un'indagine a fondo, come dovrebbe fare ogni buon vigile, ogni poliziotto, ogni guardia, per vedere se veramente chi occupa quel parcheggio sta veramente portando un disabile. La tentazione è tanta, lo so, molte volte uno ha fretta, molte volte sembra che nessuno rivendichi quel posto, ma immaginate che il posto con le strisce gialle è una sorta di barriera davanti, ideologica, mentale, di civiltà. Dovreste pensare che quel posto è l'ultimo, l'unico, il possibile residuo di sollievo per una persona che ha dei problemi. 800 24 0024. Perché è così difficile in Italia far capire sulle strisce gialle dei disabili non si deve parcheggiare, a meno che non si abbia diritto di farlo? Luca, buongiorno. Sono io, sono in linea? Sì. Allora, io invito i disabili come me. Allora, io me li arrangio piuttosto bene, per cui quando c'ho un modo di non usare, anche se ci sono, se c'è spazi per disabili e per non disabili, uso sempre quelli per non disabili. Però quando trovo la persona senza contrassegno nello spazio per disabili, mi parcheggio esattamente dietro di lui. Però lo sa che è un reato, se vengono i vigili fanno la multa anche a lei, lo so. Non me ne frega nulla. Ho passato già questo iter. Non me ne frega nulla, rimane il fatto che quello resta lì finché mi fa comodo a me. E questo dovrebbero fare tutti i disabili, perché i vigili, quelli che si mettono sui parcheggi dei disabili, non li toccano. Questo è un dato di fatto, a me mi dispiace dirlo, non c'è una coscienza generale che si compie un reato schifoso e vergognoso occupando il posto di un disabile. Eleonora. Sì, eccomi, buongiorno, mi sentite? Sì. Io porto una doppia esperienza, una nonna disabile e la mia esperienza di mamma in gravidanza. Ultimamente ci sono anche dei parcheggi riservati alle donne incinte. Sì, è una cosa diversa, però una mamma in gravidanza non è una disabile. Dire, la non civiltà, io oltre agli stalli. Sì, ma non è che lei, scusi, no, glielo dico molto chiaramente. Occupa il parcheggio un disabile, poi scende e dice io sono incinta, scusi, no, non può farlo. Mi sono spiegata male. Ci sono al momento anche dei parcheggi riservati alle mamme. Ecco. Questo è un segno ulteriore di civiltà, magari sarebbe una cosa fantastica. Ma di inciviltà da parte di chi comunque non rispetta questo diritto anche per le donne incinte. Ma oltre al problema degli stalli c'è anche quello del parcheggio negli abbassamenti pedonali. C'è tante cose che indicano proprio un'inciviltà. Guardi, sotto casa mia c'è una rampa pedonale per carrozzelle che è diventato il parcheggio fisso di una signora, ce la mette tutti i giorni. Ma nemmeno nessuno ci fa più caso. C'entra perfettamente la sua bella Smart dentro col parcheggio, quindi lei è convinta che sia il suo parcheggio. Guai chi glielo tocca, guai se qualcuno osa dire qualcosa. Vieni visto con una faccia come se tu stessi bestemmiando, dici qualcosa fuori del del mondo, dico, signora, ma questa è una rampa, la capisce? Mi guarda e dice, ma che vuole lei? Si faccia i fatti suoi. Questo non lo tollero, non voglio capire perché accada questo. Io ho cominciato un'operazione di cui mi faccio carico, lo sanno perché chi mi segue in rete lo sa. Ho cominciato a fotografare queste macchine, mandare un tweet, in modo che diventi pubblica questa cosa. So che anch'io facendo questo probabilmente compio un reato, violo la privacy di questa persona che ha diritto comunque di compiere un reato, ma non è compito mio denunciarla. Però oggi volevo riflettere su questo fatto, vorrei riflettere sul fatto che non è un paraculo, non è un furbastro, non è una persona che sa come vivere, chi mette la macchina al posto di un disabile, è una persona che è talmente incivile, talmente animale da non pensare quale problema crea la persona che è titolare di quel parcheggio, oppure ha bisogno in quel momento di parcheggiare, ha difficoltà di scendere dall'auto, ha una reale difficoltà. Lucia, buongiorno. Buongiorno. Sì. La sto ascoltando. Bene, mi dico, allora io ho il permesso per disabili europeo. Sì, abbassi la radio, per gentilezza. Alla cosa c'è anche la mia foto. Sì, quindi è incontrovertibile che o solo lei può usufruire di quel punto. Io ho una fortuna, ho le protesi entrambe le ginocchia, 74 anni, posso camminare in piano. Non faccio scale, quindi devo per forza... Però Lucia, non è che deve giustificarsi, se ha il permesso lei può parcheggiare la macchina, cosa le accade? Perché se no mi devono caricare su. Quando vado in giro con la mia macchina mi sembra di essere una persona normale, perché scendo girandomi bene bene dalla mia auto, comincio a camminare adagio un po' così... Mi guardo intorno e mi sento viva. Bene. Quindi... vado dentro un parcheggio di qualche supermercato, perché io vivo da sola e finora, anche grazie a questo permesso, sono indipendente, trovo molte volte il parcheggio riservato ai disabili occupato. E io giro intorno finché posso, dove trovo parcheggio, e pazienza, non ho mai fatto reclami, però guardi, il mio privilegio è che con questa utility io mi sento abbastanza normale. Quindi non è diciamo un lusso, un privilegio, qualcosa che gli altri devono invidiarle, è un piccolo pezzetto di opportunità per poter fare una vita migliore di quella che altrimenti farebbe. Bruno, buongiorno. Buongiorno. Sì. Posso parlare? Certo, deve. Allora, guardi, io a settembre dell'anno scorso ho accompagnato mia suocera, che è in possesso del brevetto del tagliandino di invalido, sì, a un ristorante per festeggiare. Quando sono uscito mi sono trovato la mia macchina, non solo la multa perché era scaduto da 3 giorni e mi hanno tolto 2 punti. Dopo un paio di era scaduto il permesso? Sì, era scritto bene da 2 giorni. Però, su questo non mi sento di prendermela con i vigili, però se era scaduto... No, però dopo 2 mesi ho fatto notare a dei vigili che al mercato c'era un parcheggio, e loro erano lì con me, un parcheggio invalido, sempre occupato da macchine senza tagliando. Loro mi hanno ringraziato ma non hanno fatto multa, al che io mi sono sentito in dovere di andare al comando e chiedere di parlare col comandante, che per spogli questo fatto, e mi è stato detto che il comandante non si occupa di queste cose. Quindi, lei è voluto andare fino in fondo e conferma quella che è la mia impressione. Non c'è una percezione generalizzata che questo sia un problema. Tutti vengono... Forse perché c'è un'informazione che tende sempre a puntare il dito sui falsi invalidi e non considera quelli che invalidi lo sono veramente, quindi c'è questa idea generalizzata che alla fine sia tutta una massa di persone che simulano. Ci saranno persone che simulano, ma il principio di civiltà, che un'area riservata a persone con difficoltà vada rispettata, sembra così difficile da passare anche a livello istituzionale. Melog, cronache meridiane. Il problema è stato che arrivando all'università io trovavo sempre il parcheggio per i disabili occupato da macchine senza tesserine. Torino. Io ho 1:10 con lui che aspettiamo di parcheggiare nel posto di disabili. 1:10, ma lei le sembra il caso di parcheggiare la macchina qui? Mia, questa, io sono l'operatore del parcheggio, stiamo sistemando le barre. Ma di chi è gentilmente questa macchina? Un professore che sta qui a fisica. Abbiamo aspettato per varie ore ed ecco il docente che è venuto a recuperare la sua macchina. Mi dispiace moltissimo. Io la lascio la chiave e non l'ho lasciata. Se io le lascio la macchina adesso fino alle 10 di stasera qui e lei non può uscire. Non è questo, c'ha ragione mille volte. La cosa è che fino adesso, insieme al parcheggiatore, quando si mettono le macchine scomode, compresi i parcheggi per disabili, oppure hanno una macchina qualunque, lasciamo le chiavi al parcheggiatore in modo che... Noi siamo qui dalle 11:37, 11:37. Non doveva succedere mai. Adesso è una cosa all'ordine del giorno, mi sembra paradossale, se non l'avessi provata sulla mia pelle vi direi che esagerano, no, è proprio così. Il momento più divertente, dopo che si è aspettato 20 minuti, mezz'ora, un'ora, è quando arriva il proprietario della macchina, uno si pregusta quel momento, aspetta, e dice adesso chissà che si inventerà di scusa. Molte volte lasciano anche il numero di telefono sul cruscotto per dire telefono, e voi immaginate un signore che arriva, che guida, diciamo che non ha l'uso delle gambe, con la sedia a rotelle piegata accanto a sé, vede il suo parcheggio occupato da una macchina. Sono sempre belle macchine, poi chissà perché, mai dei catorci, sono sempre delle belle macchine, non voglio fare il pauperista. Deve scendere, montare la sua carrozzella, andare con la carrozzella lì, sporgersi, ci arriva con lo sguardo a guardare sul cruscotto, vedere il numero di telefono, telefona, scusi signore, intanto ha lasciato la sua macchina in mezzo alla strada, tutti suonano, strombazzano, oh, leva sta macchina, telefona, può venire signora? Ah sì, vengo un attimo, 10 minuti, scusi, prendo il caffè. Rimonta in macchina, smonta la sedia a rotelle, si rimette alla guida. Arriva finalmente l'occupatore abusivo e scusi tanto, sa, ma sto lavorando, c'ho una nonna disabile, avevo la diarrea, cioè ci sono sempre dei motivi più fantasmagorici a quelli che poi veramente, almeno una volta una signora ha provato a mettermi sotto con la macchina, era inviperita perché io ho provato a dire che non poteva parcheggiare lì, lei non mi dà lezioni, e ha sgommato a tutta callare. E questo leva la macchina e il poverino può finalmente parcheggiare. Questa è la situazione. Beh, io oggi perché ho fatto questa trasmissione? Perché voglio premiare con, non so, con dei beni immateriali, con degli psicogadget, le persone che inventeranno un dispositivo per insegnare alla persona come non si parcheggia nei posti per disabili. Qualche risposta già l'ho avuta. Giovanni, buongiorno. Ciao, ti ascoltavo. Niente, io proporrei una cosa che ho visto in Francia, fine anni 90, inizio 2000, macchine sequestrate appunto per motivazioni, no, del genere, venivano utilizzate in parcheggi per disabili, parcheggiate con una striscia giallo rossa intorno, con un macigno enorme sopra, proprio una macchina distrutta. Io ho visto... Cioè le distruggevano a sassate? No, un macigno fa conto un metro per due, insomma. E chi ce lo metteva il macigno sopra? Il comune, la mairie del comune. Cioè, ma il comune può distruggere delle macchine sassate? Sequestrata, una macchina sequestrata. Ah, gliela rubano proprio, non gliela tolgono. Ti posso assicurare che a livello di impatto visivo era qualcosa di... Cioè, una guerra psicologica. Ti sequestro la macchina, poi la circondo con un nastro di ignominia e ci butto un macigno sopra, te la distruggo. A fianco al comune, il classico posto, come dicevi tu, della Smart, sai, no? Anche per sottolineare il fatto che non è solitanica come abitudine, cioè, no? È un po' diffusa, un po' è diffusa, quindi non c'è una coscienza generale che il posto per disabili è solo per i disabili. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io volevo brevemente dire una cosa, io titolare di una concessione perché con me viveva mia suocera disabile e non solo, come dice lei, trovavo il posto occupato, qualcuno mi diceva delle cose assurde, ma qualcuno mi ha addirittura aggredito. Sì, succede. Aggredito verbalmente e con minacce del tipo, ah ma lei qua che cosa sta dicendo? Cioè, quindi alla fine queste persone diventano anche arroganti, non hanno neanche la modestia di chiederti scusa, di dire... La mia sensazione è che loro pensino che in realtà il disabile che ha un parcheggio è un usurpatore, che in realtà non dovrebbe averlo, dovrebbe starsene a casa, non rompere le scatole, non andare in giro e lasciare il posto a loro, che comunque sono dinamici, si muovono, sono formalmente essenzialmente utili alla società. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, io sono Maurizio e sono un disabile. Spesso e volentieri trovo i parcheggi occupati. E cosa ti dicono? Cosa ti dicono quando arrivano? Beh, quindi qualcuno, ma te sei un disabile, perché io fortunatamente dopo un anno di carrozzina cammino, meno male cammino, quindi cerco anche di non parcheggiare sui disabili per lasciarli a quelli che sono in carrozzina. Ma ce la prendono con me perché io ho il tagliando, questa è la cattiveria degli italiani. È l'invidia del tagliando, siccome... Certo. Diciamo, viene considerato una sorta di ambitissimo gadget, perché tutti vorrebbero avere un posto per parcheggiare, per andare nelle corsie preferenziali, per mettere la macchina ovunque, è chiaro. Ma come dicono molti, ma se lo prendono poi anche la disabilità della persona titolare? No, nessuno la vuole, vorrebbero il tagliando senza avere la disabilità. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. La casistica che io presento qui a Firenze almeno è un po' diversa forse, laddove ad esempio nella zona stadio, dove abitano anche parecchi non vedenti, quando c'è la partita il caso delle auto, diciamo così, messe dappertutto, compresi anche i marciapiedi, aumenta esponenzialmente ovviamente. Chiaro. Ma se mai lo si fa notare a un vigile, e non sono pochi quelli, anche perché chiaramente in queste circostanze ci sono squadre di vigili anche per controllare chi va alla partita, questi sono capaci anche di negare che i fatti siano quelli e anche trattare in vano modo chi segnala queste cose. Posso dire una cosa, Enrico? Non mi sorprende, perché tutte le volte che si fa notare questa cosa sembra quasi che si faccia notare fra i tanti problemi proprio questo, perché alla fine la macchina parcheggiata, nessuno riesce ad allucinare, a pensare il fatto che dietro ci sia una persona che comunque aveva diritto a quel posto. Nessuno riesce a immaginare una sorta di horror vacui dei parcheggi, che possono esistere dei posti, pur nella congestione della città, pur nel bisogno di parcheggiare, liberi, che non ci sta nessuno. Perché? Perché aspettano una persona che abbia un problema per essere lì parcheggiata. Questo non mi sorprende. Quindi accade a Firenze che da sua esperienza i vigili dicono: ma su, in fondo non è un grande problema. No, infatti qui giorno per giorno, cioè domenica per domenica, per me quelle della partita, sicuramente questo problema c'è. Andatevi a fare un giro nei parcheggi dei supermercati, nei parcheggi degli aeroporti, vedrete la stessa cosa. Come mai? La risposta presto, spero.